I miei fiori annunciano il sole e le mie vene lo amo tanto che mi struggo nell'appassionato ardore. Quizás veo.